Allora. Mi sento un ronzio all'orecchio, forse devo farmi visitare. È la quijada. È la? Quijada. Quijada. Che è? Quijada. Quijada. Quijada, questo è il ghiro. Ah. Questa è quijada. Ah, sono strumenti musicali sudamericani. Sono quelli tipo delle batterie elettroniche che usava Jean-Michel Jarre in Oxygen. Oh, capito? Certo. Infatti la musica di Jean-Michel Jarre faceva... Faceva... È più veloce, quindi? Tipo, ok. Aspetta. No, perché non è sto tempo qua. Questo è più tipo Sade. Sì. Capito, questa roba è minimale, draga. Adesso sì, va al minimale. Minimale, oggi è martedì. E quindi è lontano dal venerdì. Appunto, cioè, perché lunedì c'ha tutta la sua letteratura di rompimento, certo, di coglioni. Che vabbè. Il martedì, il martedì è un po' anonimo, un giorno così. Allora, noi anticipiamo un po' la coolness del venerdì al martedì, però un po' minimale, capito? Quindi così è martedì. E quanti negroni? È martedì. Ci si può bere il martedì, no, martedì a sera. È cappuccina. Vabbè, alla sera. Sì. E poi dopo fai. Dopo no, il cappuccino. Appunto. Infatti, martedì è una giornata di merda. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Sono sempre le 5, Drago. Sì, non farmi segni di guardare l'ora, sono appunto, le 5. Sì, l'ora del tè. Bravo, tè. Guarda a caso, andiamo in onda alle 5 meno un quarto. Quindi e quindi sarebbe... siamo sempre in tempo per un bel tè caldo. Sai come dice Caressa, no? Chi? Quello di Sky che fa le telecronache. Ah, che quello che è, tra l'altro poi è il marito della sorella. No? Della moglie, dell'ex amante, dell'ex moglie. Di un noto scommettitore seriale. Tito, dai, era un quiz. Allora. Però dai, ha ragione a protestare. Adesso cosa c'entra all'ora del tè? Le 5 con Caressa, lo scommettitore seriale. Allora, Caressa, quando l'arbitro fischia l'intervallo della partita, lui dice sempre: e l'arbitro manda le squadre degli spogliatoi a bere un tè caldo. Capito? Questa è una sua formula. Città tipica del Messico ad agosto. È lo stesso, dice sempre quello, caldo, perché evidentemente i calciatori non è che bevono. Tutto questo gelato, giro di parole, di situazioni, di riferimenti e di citazioni, arriviamo al punto. Cosa sgranocchiano? E noi anche sgranocchianemo. Qui sbagliano gli svizzeri, non sanno scrivere l'italiano, certo, e quindi mandano la cosa sgranocchiano, no? Cosa sgranocchiamo mentre beviamo il tè caldo gentilmente offertoci dal marito, della sorella, della moglie, dell'ex amante, dell'ex moglie di un noto scommettitore seriale? In ufficio, tra colleghi e colleghi, tra colleghe e colleghe, oppure anche tra colleghi e colleghe, quando la teiera fa la sua solita comparsa alle 5 meno un quarto. Quando mai? Ma non trovi una teiera negli uffici italiani neanche a morire. Ma la teiera. Colleghi e le colleghe, in vista della tradizionale goliardica bevuta di tè, si organizzano con la merendina che meglio soddisfa i criteri della BCE in termini di rapporto PIL-debito. Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Ma non passa, come non passa, ma così cosa? Non passa. Ma cosa? Il messaggio non ma passa. Ma come non passa? Ma cos'è in ufficio tra colleghi? Si beve il caffè, non il tè. Ma e lo poi so, la merendina, Kappa, io non dai, so. Scusa, se tu in uno spot dici che si beve il tè, come tradizione, per incanto si verifica la sospensione dell'incredulità di cui parlava Coleridge a suo tempo. E per un attimo incantato, stai zitto, si crea un mondo fasullo ma vivido e concreto. Sì. Tipo la pubblicità, noi che le telefonate erano solo gettoni. Quella roba lì, quel sì, tipo di nostalgia che non... adesso non so cosa sto dicendo. Infatti. Dove zitto, dai, sta zitto un attimo. Senti, facciamo così, facciamo che il Wunderwaffer si mangia in ufficio col caffè. Caffè. Hai capito? Ma... o col moccaccino, così un po' più infantile. C'è un po' di latte macchiato senza zucchero. Insomma, senza il tè, Drago, che ma, il tè vabbè, non funziona, scusa, non Kappa, passa ma, il tè. Ma sono le 5 non è... Drago, sono le 5 e non in sarà Italia mai... tutti bevono il caffè, va bene? Ma... e io ne bevo anche troppo, che vedi? Infatti, allora... vedo.

Capo, tu sei pazzo. Chiedo asilo. È tra 24.it. Lunedì, venerdì, 16.45.